Ciao a tutti, sono Jessica Mazzotti e sono in provincia di Pisa, dove sono tornata dopo un anno all'estero, in Uruguay, e mi sono trovata in questo clima pandemico. E naturalmente col servizio civile non ho la NASPI e non troverò mai lavoro, però vabbè, ci diletteremo ad ascoltare insomma delle letture. E io vi leggo un testo di Gilberto Centi, che è un poeta poco conosciuto perché è anche molto giovane. Lui è nato a Roma, aveva genitori dell'Aquila, poi ha passato, diciamo, gli anni Ottanta a Bologna. E questo testo si chiama Prove tecniche di trasmissione. Grandi catafalchi hanno l'orizzonte, videoschermi giganteschi in cima alle torrette. Di notte montano le brande famiglie coi lumi che il vento spegne tra l'ira dei parenti, coi bambini semiciechi. Sopra gravita un cielo ospedaliero, bianco latte andato a male, funestato dalle crepe. Sui videoschermi trasmettono mio padre, una gamba sola, chiede soldi, non mi conosce, piange. Credo sia lo stesso, con due gambe, che precipitò. Mia madre per le scale spingendomi via dalla sua vita, correndo nei cunicoli degli anni. Ogni tanto il suolo trema per l'inadeguatezza delle strutture naturali sottostanti. Allora cadono capanne, vecchie foto e pentole dal fuoco. Lontano dalle reti protettive si muovono folle sterminate senza lingua e senza suono. Nella pianura estrema vivere è questo brulicare delle genti. Il vacillare ad ogni arrivo di popoli da tutti i continenti, spinti in questo luogo da insondabili ragioni, sembrano ignorare il motivo del trasloco. Io sì, che sono andato per i mari occidentali. Puoi capirlo da come parlo quando parlo, ed ho naufragato nel deserto, perciò vivo come vivo, e ti guardo in questo modo quando mi parli dell'Olanda o di Berlino. Vedi come annuisco alle tue certezze cieche, appoggiato come sono contro un muro che crollerà tra un anno. Che crollerà tra poco. Dici d'amarmi, così amo il tuo mentire. Per odiarmi prendi tutto il tempo che ti è dato. Avrò altro da fare, tipo resistere, morire, darti atto. Io sì che ho ciondolato per le Americhe, che ho conosciuto il quinto continente. Così ti percepisci che alla fine vinci sempre. E visto che ci siamo, e se ci tieni, fammi sapere che valore dai alle tue parole. Entrambi fingeremo di ignorare che è dei due che si è ferito. Entrambi fingeremo di ignorare chi è dei due che si è ferito per quattro vetri di bicchiere. Qui non risultano pulsioni, attrazioni, puri o cupi amori. Il desiderio si distende nella presenza senza appartenenza. Polverizzate convivono le razze nella pianura immensa, dove l'enormità di umani qui ammassati produce umido clima temperato per l'indicibile quantità di fiato. Il resto, tutto il resto, è secondario. Proiettili di luce nella mente e tu, che mi torturi il sonno camminandovi di sopra, segui i passi metodici sul pavimento dove vivi. Dunque questo soffitto che altri dice cielo. Invecchierai rallentando il passo, invecchierai tossendo, cigolando, senza scampo. Allora perderemo. Il firmamento artificiale per inabissarci dentro al male. Il ronzio di miliardi di dormienti ristagna a mezz'aria sulla piana. Nei videoschermi c'è Silvia, la detenuta, che muove la bocca senza voce. La tengono su con un lungo chiodo conficcato nella fronte. Le labbra battono l'una contro l'altra con uno schianto continuato di porte di metallo. Non contare le battaglie pensando alle rovine. So che sei solo e mi dispiace. Però la mutevolezza dei fronti ti garantisce la guerra necessaria. Trema, non tremare. Hai per arma la loro debolezza, che si tradisce in quanto s'asserraglia. Trascinati con cavi di platino e di ferro, da ruote e volontari, arrivano i depositi, le grandi navi e gli aeroplani. Di notte ci si vede ancora per candele. L'orizzonte ingoia nei catafalchi, verde rame, tutti morti, raccolti nei tempi prefissati. E adesso va in onda un vecchio cane che fatica nel suo andare sotto un cielo vero, stelle millenarie. Forse domani saremo finalmente dentro al grande male. senza la miseria del pudore, opere buone e l'altro, l'altro in ogni caso, autore del dolore. Videoschermi spenti, frammenti di cielo, soffitto, pavimento, cadono galleggiando come fa la neve. Luce fioca buona, per morire o per dormire. Senza titoli di coda, senza la parola fine.